avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Mi rendo conto che questa mattina, se evoco il termine fallimento, l'immaginario di tutti va, e per cruda e cocente realtà, ad aspetti che vanno ben oltre al fallimento matrimoniale. Ma così, per tirarci un po' su e per far capire che in realtà a tutto probabilmente si può rimediare, questa mattina vorrei parlare proprio del matrimonio. Del matrimonio visto, naturalmente, in chiave problematica. Ogni anno in Italia, mediamente, si separano circa 170.000 persone, mentre i nuovi divorziati sono 110.000, con un incremento del 2,1% rispetto all'anno precedente. Questa cifra, questo trend sembra aumentare di anno in anno. L'età dei separati si va sempre più innalzando negli ultimi anni, sono 45 anni per gli uomini e 41 anni per le donne, e questo naturalmente, poi entriamo in merito alle cifre con persone che di questo ne sanno più di me, dà l'idea che in generale un matrimonio su tre alla fine va male in Italia, più o meno. Le persone si sposano perché non si dovrebbero sposare, figuriamoci, la stagione felice dei matrimoni vede tantissime cerimonie celebrarsi intorno ai monumenti storici, intorno ai monumenti appropriatisi in maniera impropria di carattere storico-architettonico proprio perché le persone ci si sposano. Però qualcosa non funziona più, questa istituzione che è stata il cardine base della nostra società probabilmente è sempre più sottoposta a un senso di precarietà. Sì, la gente si sposa, ma sa che tanto è qualcosa che va a termine. Non ci si sposa con l'idea che ci si prende un macigno, ci si porterà dietro con leggerezza, con piacevolezza, con sopportazione, con amore, con sofferenza, con gioia per tutta la vita. No, questo non esiste più, chiaramente. Si trova un compagno, una compagna, si decide di fare coppia, poi si decide di firmare un contratto per cui si hanno alcune agevolazioni di tipo fiscale, di tipo retributivo, si fa una società e si compra una casa assieme, si gestisce meglio la famiglia, insomma diventa una società di comodo non più basata su un principio di indissolubilità, ma che il matrimonio non sia più indissolubile, questo è tanto tempo che l'abbiamo capito, ma che sia al contrario diventato qualcosa così transeunte ci fa pensare che forse lasciando buone e non andando a intaccare le convinzioni etiche e religiose a nessuno, che è un'istituzione che probabilmente va rimodulata a seconda di come è cambiata la società. Esistono illuminati economisti come Jacques Attali che prefigurano una società in cui la coppia non è più come la pensiamo adesso, la coppia semplicemente è una comunità, è una serie di persone che vivono in una comunità allargata, un po' come il social networking. Voi siete così facilmente propensi ad allacciare veloci associazioni, amicizie, complicità attraverso la rete, beh, immaginate che questo possa essere un test di quello che accadrà nella società. 800240024. Quanto ancora credete nel matrimonio? Quanto ancora secondo voi è un'istituzione importante il matrimonio? E cosa potrebbe essere il passo successivo? Diamo un'occhiata al futuro, visto che oggi lo fanno tutti. Come potremmo prefigurare un rapporto tra un uomo e una donna in un futuro in cui il matrimonio non fosse poi l'unica chiave essenziale per sancire l'unione tra due persone? Da separato sento che sta chiedendo cosa succede dopo. Dopo è come cambiare macchina. Quando si cambia macchina si è contenti perché si trova qualcosa di più fresco, c'è i sedili in pelle, qualcosa di meglio, colore nuovo, è più giovane. Sono una vittima di aggressione da parte del mio ex marito, però non voglio essere catalogata come una che si lamenta. Io ho cercato di porre rimedio a tutta questa situazione. La cosa più assurda che sta accadendo è che io sono 5 anni che sto cercando di riconquistare non dico la mia libertà perché sarebbe in questo stato una cosa, un'eresia, però io sono 5 anni che sto cercando di riconquistare la mia serenità e quella di mio figlio. L'unica cosa... Due situazioni, abbiamo cominciato a attingere le testimonianze che ci hanno mandato via Facebook o attraverso la nostra rete telefonica agli ascoltatori, due tipi di situazioni che posso smontare e demolire immediatamente. Come cambiare macchina, spendere qualcosa di più fresco, sì, ma se l'unica molla era quella di avere ciccia fresca, come si dice tra amici, vi renderete conto che alla fine, se è come cambiare la macchina, avrete trovato un parco macchine da mantenere. Il vero problema di chi si illude comunque di riniziare nuove unioni è di ricadere sempre nella stessa pozzanghera, aumentando il livello di problematicità. Se prima era soltanto una ex famiglia, un'ex persona da gestire, cominciano ad essere due, tre, quattro, alla fine si trova una popolazione allargata di creditori di attenzione, di affetto, di sostegno economico. L'altra signora, la signora è perseguitata dallo stalker, quelli che non si rassegnano che la cosa finisca, e quindi deve esserci una sorta di vampiresco desiderio di andare avanti, di carpire il più possibile esistenza alla persona che ha fatto il grande oltraggio di lasciarci, di abbandonarci. Questo perché siamo condizionati all'indissolubilità del rapporto amoroso, del rapporto fisico, del patto di vivere assieme. Marco da Venezia, buongiorno. Salve Nicoletti. Senta, i motivi delle separazioni poi secondo me sono alla fine solamente economici. Cioè, a un certo punto le cose non vanno molto bene, come in tutti i matrimoni, immagino si litiga e si discute. E alla fine, quando uno si trova ad aver fatto dei figli, ha la certezza di essere cacciato di casa e di diventare un nuovo schiavo. Auguri, cosa devo dire? Ma uno dovrebbe pensare da prima che le persone cambiano, le persone non rimangono integerrime, bloccate nel modello in cui l'abbiamo conosciuto, nel fulgore della passione. Diciamo che in tempi passati questo cambiamento era assorbito dall'istituzione che cementava tutto, chiudeva tutto. Oggi, visto che l'istituzione è aperta, perché cadere nella stessa psicosi, nella stessa angoscia? Perché non prevedere un sistema che a priori già comprenda il fatto che le persone cambiano e questo cambiamento fa parte del gioco? Fabio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, guardi, io chiamo da Bologna, ho 24 anni. Il mio intervento era inerente al fatto che prima, ascoltando, sentivo che lei diceva che quasi un terzo dei matrimoni fondamentalmente va a finire male. Sì, mi dia atto che oggi la gente si sposa avendo già una pagina aperta e dire ma questa cosa durerà, non durerà. Io vengo considerato come una sorta di caso clinico per il fatto che sia da sempre sposato e nemmeno pensi a cambiare la mia situazione. Ma probabilmente anch'io, perché a 24 anni io ho un desiderio di sposare la mia ragazza, ma probabilmente perché io alle spalle ho una famiglia che, diciamo così, ha sempre messo davanti sia i miei genitori che i miei nonni, probabilmente anche i miei bisnonni, diciamo così, una forma di orgoglio e di responsabilità nei confronti di altre persone. Cioè, in poche parole, credo che in una famiglia, io parlo dalla campagna bolognese, probabilmente ancora una civiltà ancora contadina, in cui quando si prende un impegno dinanzi a altre persone, il rispetto è tale per cui... Lei sta dicendo qualcosa di sacrosanto, qualcosa che però appartiene a una società diversa dalla nostra. Io sono d'accordo, uno si prende un impegno, fa dei figli, per impegno sta con la persona, è inutile illudersi che ci sta per l'amore eterno, per il patto di stima, ci sta perché è un impegno. L'impegno riesce a smussare tanti angoli, l'impegno compensa, è chiaro, se uno cerca la piacevolezza assoluta, l'assoluta soddisfazione carnale, la gioia quotidiana rispetto alla propria vita, è chiaro che uno non si sposa, cambia ogni volta che è stanco va a pescare nel libero mercato degli affetti e delle persone e trova qualcosa di nuovo. La sua famiglia le ha trasmesso dei valori arcaici, ma senz'altro motivati e giustificati, dell'impegno matrimoniale, e lei dice non vedo l'ora di metterli in atto. Però lei si andrà a scontrare con una società che è diversa da quella dei suoi genitori. I suoi genitori non vedevano nemmeno l'alternativa al matrimonio, per questo per loro era la convinzione più efficace. Lei si troverà intorno a tutta una serie di altri stimoli, di altre suggestioni, di sollecitazioni, per cui le verrà in mente più volte di dire metto in dubbio questa scelta, Fabio. Sì, certo, ma secondo me il problema è proprio sembra un controsenso, però è quasi la troppa libertà delle persone, perché quando... Sì, come dice Alberto Sordi quando lo inizia nella massoneria, la libertà è bella, ma peccato che ce n'è troppa. Viva Dio, c'è libertà. La libertà significa ci sono più scelte. Quello che stiamo facendo questa mattina è individuare qual è il nuovo modello di aggregazione della coppia, visto che il matrimonio, con tutto il rispetto, con tutta la profonda ammirazione per ciò che ha significato, è un modello, secondo noi, diversamente adeguato alla nostra società in evoluzione. Intanto saluto l'ospite che è arrivato, che ha avuto un piccolo problema, Gianettore Gassani, buongiorno. Buongiorno a voi. È presidente nazionale dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti, appena scritto un libro, I Perplessi Sposi, indagine sul mondo dei matrimoni che finiscono in tribunale, edizione Aliberti. Allora, avvocato, lei subito dal suo punto di vista, noi abbiamo cominciato ad abbozzare l'idea che la nostra società in realtà si è talmente diversificata che l'istituzione matrimoniale, per la quale abbiamo massimo rispetto, sembra non più adeguata alla vita quotidiana. Dal suo punto di vista di avvocato matrimonialista, anzi dal suo osservatorio del matrimonialista di tutti i matrimonialisti, è d'accordo con questa lettura? Assolutamente sì. In effetti la famiglia italiana non è più un'isola felice e il matrimonio sicuramente non è l'unica istituzione. Tanto è vero che negli ultimi periodi c'è stato un aumento incredibile di coppie di fatto. Io ho citato dal suo libro i dati sui matrimoni che falliscono. Assolutamente, è veramente una strage. Sono impressionanti. È una strage di matrimoni. Praticamente 4 matrimoni su 10 finiscono in tribunale. C'è ancora una mentalità che è quella della contesa a tutti i costi. Gli italiani non sanno neanche litigare e questo ci preoccupa moltissimo. Il mio libro I Perplessi Sposi, che ha un titolo ironico, in effetti è un libro molto amaro, quasi disperato, perché fa capire che la nostra istituzione del matrimonio, che ha fatto sempre invidia al mondo, è quasi finita ed è il caso di prenderne atto. E faccio un esempio. Negli ultimi 40 anni è dimezzato il numero di matrimoni. Cioè nel 72 ce n'erano 420.000 all'anno. Nel 2010 210.000. L'alternativa qual è? Una convivenza legalizzata? No, l'alternativa è che, fermo l'istituto del matrimonio, che per carità nessuno vuole mettere in discussione, sarebbe il caso di riconoscere anche le coppie di fatto, riconoscere i diritti civili, come succede in tutta Europa. Purtroppo le coppie di fatto sono fuori dal codice, fuori dalla società, sono scomunicate. E tutto questo non è concepibile. Perché? Perché in una società in cui le coppie di fatto, sia quelle per necessità che quelle per scelta, necessità perché a volte ci vogliono 14 anni per avere un divorzio, molte volte strutturano vere e proprie famiglie che non hanno niente di diverso rispetto a quelle degli sposati, pagano mutui, affittano case, portano i bambini a scuola, danno un contributo alla società e poi che cosa succede? È un'ipocrisia far finta che non esistano. Assolutamente. In nome di un'istituzione che ormai, ma io lo dico, guardi, sono la persona più lontana al mondo da posizioni ideologiche, figuriamoci, mi sto rendendo conto, osservando il mondo, che questa cosa che teniamo in piedi come matrimonio è come quelle sagre dei santi di paese, che ormai non ci va più nessuno, sono cose organizzate alla Pro Loco, servono soltanto a vendere oggetti cialtroni alle bancarelle e a dare un'idea alla piccola comunità che ancora ci sia un legame col passato, invece che attaccarsi a un modello che non esiste più, lasciando ferma la scelta di creare matrimoni indissolubili, consacrati a chi lo fosse. Anzi, sarà una scelta eroica e ammirevole, proprio perché è una scelta particolare, non obbligata. Non è il caso di pensare un modello istituzionale, legalizzato, funzionale, che sostituisca quella che è la famiglia che non esiste più? Ma il problema è questo, che io sono per la famiglia, ma non sono per il passaggio obbligato al matrimonio, nel senso che chiaramente la famiglia esisterà sempre, chiaramente sta cambiando, ci sono le famiglie allargate, ci sono le famiglie di conviventi, per carità, il matrimonio è sempre un'istituzione importante. Il problema è che c'è un atteggiamento consumistico rispetto al matrimonio, ci sono i matrimoni fast food, usa e getta, il matrimonio della facciata, il matrimonio da agenzia matrimoniale. Noi ci preoccupiamo sempre dei numeri in aumento delle separazioni e divorzi, ma non ci preoccupiamo del numero in aumento dei matrimoni, gli speed marriage, cioè quei matrimoni che si fanno per accontentare mamma, per accontentare papà, per avere uno status sociale. E in nome di queste tradizioni, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, si organizzano poi banchetti incredibili. Si fanno debiti che durano tutta la vita. 50 anni di mutui per pagare un giorno e poi magari al ritorno dal viaggio di nozze si va dall'avvocato per chiedere la separazione. Sentiamo qualche ascoltatore, così allarghiamo. Roberta, buongiorno. Ciao. Ciao Gianluca, allora io sono una che ci crede nel matrimonio perché è già la seconda volta che mi sposo. Ti è piaciuto talmente tanto che non vedi l'ora di rifarne un altro. Ma lo rifarei, cioè voglio dire, nel momento in cui... Pensa contento il tuo secondo marito a sentirti dire questo. No, no, vabbè, lo sa, perché glielo dico, perché nel momento in cui non va più bene ho capito già dalla rottura del primo che non è così drammatico. Sì. L'importante è separarsi bene, voglio dire, io non ho mai chiesto alimenti al mio primo marito, abbiamo cresciuto il nostro figlio insieme, abbiamo un ottimo rapporto, bisogna riuscire a contare fino a 100, a mordersi la lingua per un po' di tempo, poi le cose vanno bene. Ma tu sei già nel futuro, vedi Roberta, tu già hai messo a punto, arrangiandoti a modo tuo, quello che è il modello su cui stiamo arrivando, una forma di unione sancita, non dico di no, sancita e garantita, così deve essere, se ci sono dei figli, sono dei beni in comune da amministrare. La cosa più bella è il rapporto con i figli di questi mariti, perché poi alla fine si sentono tutti fratelli, si aiutano, si sostengono. Sì, non è esattamente sempre così, non è quest'isola felice. Per me, io forse sono anche fortunata. Sì, sei fortunata, però si creano delle situazioni di una drammaticità nelle famiglie allargate obbligate. Quando mio marito è avvocato, quindi lo so e me ne racconta, però io mi considero fortunata e ogni volta è un rinnovarsi, cambio quindi marito, lavoro, perché è successo così. Vabbè, no? Sì, però se tu avessi uno strumento che ufficialmente ti permette di switchare ogni volta senza drammi, senza problemi nel nuovo marito, saresti più contenta, non saresti additata come esempio di lussuria e di disordine, perché fa parte ormai dell'evolversi della società. Gianetto Regassani, rispetto a questa signora. Chiedo scusa, ma le famiglie allargate sono tantissime in Italia. Non sempre come... Non è un idillio sempre, diciamocelo. Assolutamente no. Ci sono delle famiglie allargate intelligenti, ma ci sono delle famiglie allargate dove si nascondono anche violenze, incomprensioni, dissapori, per cui non si può fare un bilancio assolutamente positivo, come però bisogna anche prendere atto che nel momento in cui siamo un popolo che sta diventando simile a quello tedesco o francese in tema di numero di separati e divorziati, inevitabilmente ci sono le famiglie allargate. Per cui io non le vedo negativamente, però chiaramente per entrare nella vita di famiglie disgregate, quindi essere il partner di un ex marito, di un'ex moglie, non è facile, è un'arte. Molte volte ci sono le cosiddette fate turchine o i principi azzurri che salvano persone separate e divorziate, altre volte si creano veramente dei dissidi, quindi diciamo che al 50% positivo, al 50% negativo. Poi il mercato è quello che è. Se oggi una persona mediamente dai 35 ai 45 anni vuole riaccoppiarsi con un'altra persona, trova una persona che necessariamente è separata o divorziata, cioè difficile, e si porta dietro un fardello di un ex moglie, un ex marito assatanato, incazzato, arrabbiato o al massimo indifferente, e qualche figlio da mettere ad aggregare. Beh, questo è vero, ma bisogna considerare che oggi un operaio che si separa è un uomo morto. Cioè, certo, non si separa. È un uomo morto perché, voglio dire, non ha alcuna speranza, perché se io guadagno 1.300 euro al mese e poi ne verso 800 di mantenimento, per me è la fine. Per cui la donna che mi amerà, la nuova compagna, la fata turchina, fa i conti con un uomo che praticamente due cuori e una capanna, quella è l'alternativa o nient'altro. Esatto, quindi credo che anche da questo punto di vista dovremmo discutere sul perché poi abbiamo quasi 1 milione di pari separati per strada. Soltanto a Roma ce ne sono 90.000 che vivono in situazioni quasi indigenza. Sì, gente va a dormire alla Caritas, sì, sono finiti, uomini finiti. Oggi separarsi lo può fare un professionista o un imprenditore. L'operaio non ha il diritto di separarsi, perché se vuole esercitare questo diritto deve rinunciarne ad altri, che è la dignità, avere una casa, avere uno stipendio. E su questo anche dobbiamo ragionare. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Sono stata abbandonata 3 anni fa da un marito che è partito subito, immediatamente, si è messo con un'altra donna, ha abbandonato me e suo figlio. Da 3 anni mi sta facendo una guerra impossibile. Ho cercato di uscire, io donna esclusivamente di famiglia, che credeva nella famiglia, che si è trovata improvvisamente a dover vivere un quotidiano che non capiva, che non voleva, che non desiderava. Io sono una donna separata, ho una ragazzina di 17 anni, la sto crescendo da sola e ho cercato, vabbè, all'inizio magari in malo modo, ma dopo sempre di più, di far entrare il papà di mia figlia nel rapporto, dando proprio dei ruoli di importanza a questo papà, a questo uomo. Eh sì, abbastanza complicata, una volta era tutto più semplice, era così e non si discuteva, e stavi dentro, t'arrangiavi, c'era l'istituto della fuga matrimoniale, della fuga domestica, dell'aggiustamento del grande tappo dell'ipocrisia che copriva tutto. Oggi la società si è differenziata, è cambiata, si è articolata diversamente. Oggi dobbiamo capire qual è la forma migliore per dare un senso istituzionale a un rapporto di coppia quando ci sono figli. In particolare c'è una fattispecie molto singolare, quella del nostro paese. In Italia le cose vanno lievemente diverse rispetto al resto d'Europa. Non ci stiamo allineando su un piano economico-finanziario, ma anche sul piano della strutturazione sociale forse avremo dei passi avanti da fare. Ho in studio come ospite Gianettore Gassani, che è presidente nazionale dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti, che ha scritto un libro molto interessante ed esaustivo sulla materia, I Perplessi Sposi, indagine sul mondo dei matrimoni che finiscono in tribunale, edizione Aliberti. Velocemente, avvocato, vediamo se riusciamo a dare le fattispecie di diversità criminale nel nostro paese. No, è perché è così. Allora, le coppie di fatto, molti dicono: ah, io convivo con il mio uomo, con la mia donna, i figli sono felicemente riconosciuti, perché doverci sposare? È un passo che non riconosciamo. Benissimo, metti che questa unione finisse un domani, una delle due persone si potrebbe risposare, fare dei figli con la persona con cui si è sposato. I figli della prima unione sarebbero dei figli di serie B. Assolutamente. Nel mio libro I Perplessi Sposi, che tanto è oggi in tutte le librerie d'Italia, esce questa mattina. Sì, ah, oggi. Benissimo, lo portiamo a battere. No, è bello che sulla copertina c'è lei con una corona funebre con scritto Riposa in pace, è anche sì. Ironico. Beh, insomma, il titolo è ironico, anche la foto, perché sono poi delle scelte editoriali, ma il messaggio del libro è particolarmente amaro e anche disperato in certi punti. Beh, diciamo che l'Italia è dal punto di vista del diritto di famiglia è assolutamente fuori dall'Europa. È un paese che cammina da solo. Vediamo i punti più crudi. Ma il primo punto è il mancato riconoscimento di diritti minimi alle coppie di fatto. Perché le coppie di fatto sono ancora considerate, tra virgolette, peccaminose, fuori dalla cultura sociale, e probabilmente il legislatore non è più sintonizzato con i costumi e con le statistiche. Diciamo che il peso forte, diciamo, della influenza politica della Chiesa cattolica, diciamo, ma lo dico in posizione totalmente, è forte, anche perché le relegare all'aspetto dell'atto sessuale improprio al di fuori dell'aura santificata del matrimonio compromette tutto. In un punto di vista più laico, più leggero, con grande rispetto e con grande ammirazione per l'eroismo di chi fa delle scelte radicalmente legate a una visione religiosa della vita, uno dovrebbe dire: ma in che mondo viviamo? Ma io ritengo che la Chiesa abbia il diritto di sostenere le potentissime, ma noi abbiamo il diritto di sostenere le nostre. La società italiana sta cambiando. Credo che se anche chi opera nella politica in nome e per conto della Chiesa non si rende conto che la società sta cambiando, non andiamo più da nessuna parte. L'Europa ci ha bocciati tante volte anche da questo punto di vista. Più volte ci ha richiamati all'ordine perché non riconosciamo i diritti alle coppie di fatto, non riusciamo ancora a sistemare una questione orrenda, che è la differenziazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, i cosiddetti figli legittimi da una parte e i figli naturali dall'altra. Già la differenza terminologica è una cosa inaccettabile. C'è un ragazzo che vive solo in Italia, che vive 15 anni con una coppia che vive assieme come se fossero marito e moglie, dividendo, cioè, lei mutui, problemi, vacanze, acquisti, istruzione scolastica. Poi improvvisamente uno dei due decide di prendere un'altra strada, si sposa e fa dei figli, il fratellastro è un figlio legittimo e tu rimani un figlio naturale, quindi con minor diritti anche da un punto di vista patrimoniale. Ci sono, sì, indubbiamente nel corso degli anni si è cercato di equiparare i figli naturali ai figli legittimi, ma di fatto ci sono ancora delle differenze. Per esempio, i figli naturali, quando i genitori si separano, vengono poi sottoposti al vaglio del giudice minorile, che è il giudice del disagio, è il giudice dei Rom, è il giudice che è nato nel fascismo quando c'erano gli orfani di guerra. Cioè, entrano già in una categoria di disgraziati. Cioè, già sei un disgraziato, perché sei nato fuori dal matrimonio, sei già scomunicato dalla vita, dalla società, dal codice civile addirittura. Se sei figlio legittimo hai tutti altri diritti, sei tutelato dal giudice ordinario, quello delle situazioni più facili, perché il tribunale della famiglia intesa come famiglia sposata. Ma un paese che nel 2011 ancora ragiona così, dove vuole andare? Pensate che in Italia abbiamo abrogato il delitto d'onore, noi parliamo della sharia e delle lapidazioni, soltanto 30 anni fa. Io mi ricordo quando accadde questa roba, sì. È una cosa, io mi ricordo che uno poteva ammazzare la moglie, trovava in fragranza di tradimento. Il famoso film di Mastroianni, Divorzio all'italiana. è uno spaccato della nostra Italia, ma un film del 66. Quindi noi molte volte prendiamo in giro gli arabi, i nordafricani, ma noi eravamo peggio di loro. Avevamo un arcaismo radicato negli anni del boom economico. Ma nella testa di molta gente è rimasto ancora quel tipo di diritto di famiglia, perché altrimenti non ci spiegheremo come mai in Italia ci sono più morti ammazzati in famiglia che quelli prodotti dalla mafia. Perché spesso e volentieri le tragedie familiari nascono da un codice d'onore che non è stato ancora tolto dalla testa. E anche il di fenomeno dello stalking, che è diffusissimo ormai. Terribile. Su 10 amiche ce ne sono 7 stalkizzate da ex amici o ex fidanzati. È perché l'uomo non accetta il fatto che gli sfugga l'oggetto del suo. Ecco, da questo punto di vista non riesce ad accettare di essere lasciato. Io ricordo che di aver difeso, ho tentato di difendere anni fa, un noto mezzo busto al femminile di un TG italiano. Perché c'era un ammiratore che per anni la aspettava fuori dalla RAI. Quando si andava dai carabinieri a fare la denuncia non c'era niente da fare perché non era stata varata la legge. Siamo ultimi anche in questo, cioè capire che anche mandare 30 rose ogni giorno nel luogo di lavoro o riempire il parabrezza è una molestia. Sentiamo qualche ascoltatore. Anna, buongiorno. Buongiorno, telefono da Padova e volevo portare il mio piccolo contributo. Faccio solo due piccole precisazioni. Sottoscrivo tutto quello che aveva già detto, oltre che il nostro ospite, anche quel ragazzo, chiamiamolo 26 anni. Sì, che aveva detto, i genitori mi hanno insegnato che bisogna sposarsi e io mi sposerò felicemente. E io ho detto, è un'ottima scelta. Cioè, certo. Detto questo, aggiungo anche che provengo da una famiglia in cui mio padre, penso che abbia picchiato mia madre tutte le volte che non aveva neanche l'occasione di farlo perché non ce n'erano, però non si sono mai separati. Era considerato un cemento dell'amore in epoche passate. Sì, con buona pace della Chiesa che lo sapeva o dei vicini che lo sapevano, nessuno mai ha aiutato la nostra famiglia e va bene così. Io ricordo mia nonna portava i vestiti del nonno a benedire dal prete, che il prete dice porta i vestiti, li benediamo se ti mena così. Sì, sì, infatti. Io mi sono sposata perché credo comunque nel matrimonio, non è per niente rose e fiori. Posso dire che mi sono sposata, ho conosciuto mio marito in un mese. Mi ha chiesto di sposarlo dopo neanche un mese che lo conoscevo, in 3 mesi eravamo già sposati, sono 22 anni che siamo sposati, tra alti e bassi diciamo che il bilancio è positivo. Beh, questa è una scelta, è una scelta, l'ho detto. Sì, ma sì. Infatti non mi pare che abbiamo discusso l'istituto del matrimonio. Quello che volevo dirle è questo. L'unica cosa che volevo dire in questo intervento è questo. Io ho una ragazzina e l'unica che ovviamente a cui vogliamo tantissimo bene, la nostra figlia, eccetera. Però la cosa che mi preme assolutamente tutti i giorni insegnarle, quando si crea l'occasione per poterne parlare, chiaramente non deve essere un bombardamento di informazioni, è di conoscere se stessa e di conoscere i ragazzi, i maschi, l'uomo. Non ci sono, non è il principe azzurro, non è neanche da demonizzare, è soltanto da conoscere, perché secondo me moltissime, per non dire tutte le ragazzine che conosco o che con le quali di cui sento parlare. Ragazzine, che età parla lei quando dice ragazzine? Ragazzine, le teenager, fino ai 20 anni. Ah, sono 20 anni. L'età, ecco. Io vedo che le mamme, cioè non lo so, non mi sembra che parlino tanto dei sì, però cioè, Anna, e chiudiamo qua. Conosce una persona non basta una vita, non è che uno la conosce con 3 anni di fidanzamento. Accadono sorprese di cui tutti ci rendiamo conto anche dopo 10 anni di convivenza. Sì, ma perché conosce solo il maschio? Dovrebbe conoscere anche la ragazza. Cioè, voglio dire, credo che la preoccupazione dei genitori sia reciproca. Voglio dire, anche un figlio maschio deve stare attento a non scegliere una ragazza sbagliata. Si può vedere la preoccupazione nasce avvocato dalla fatalità della scelta. Una volta fatta la scelta, poi tornare indietro significa una grande difficoltà. No, ma io se mi è consentito, sì, vorrei chiarire una cosa. Viva il matrimonio, ma viva qualsiasi forma di famiglia. E ovviamente una famiglia unita è un momento di felicità dell'intera società. È la situazione ottimale. Che assolutamente, perché guai a poter poi metterci in bocca cose che non abbiamo mai no, detto. No, no. Il matrimonio deve essere tutelato come deve essere tutelata qualsiasi famiglia. Il problema è che non c'è una politica sociale in tal senso. Come si può pensare che per esempio a Roma o a Milano una coppia di impiegati possa comprare una casa, affittare una casa, mettere al mondo dei figli? Ci si pone il problema della natalità quasi zero nel nostro paese e non ci si rende conto che un figlio costa praticamente tre quarti lo stipendio. E non pensiamo poi alle politiche dell'infanzia, all'assistenza, alle scuole, gli asili, la compatibilità di una donna che lavora con il fatto che sia madre di un bambino piccolo. Assolutamente. Poi c'è anche un discorso che molti padri non vogliono i congedi parentali, per cui molte volte non contribuiscono al menage familiare, perché voglio dire, dobbiamo parlare poi delle negatività di entrambi. Certo. E poi c'è la questione processuale, giudiziaria. Abbiamo un processo lento che va a esasperare gli animi degli italiani che chiedono giustizia. Siamo ancora con la separazione prima del divorzio, perché la separazione è potresti motivata. Ripensarci. Ci potresti, ecco, ripensare, e non esiste in nessun altro paese, tranne la Polonia, Malta e Irlanda del Nord. In Europa la separazione l'hanno tolta di mezzo. Quando gli italiani intendono mettere in discussione il matrimonio, devono espiare una colpa, devono fare una via crucis. Dovrai aspettare 10 anni per ottenere lo stato libero se non trovi un accordo. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Siccome faccio l'avvocato, mi è venuta in mente una cosa. In passato ci sono state delle sentenze di separazione con addebito al coniuge che veniva trovato dall'altro coniuge mentre navigava in internet e in chat intratteneva delle relazioni tutto sommato platoniche con altre persone. Non avete paura che il vostro coniuge la possa utilizzare contro di voi? Rinaldo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Grazie per darmi questa bella opportunità. Io volevo innanzitutto con questo messaggio essere vicini a tutti quelli che vengono molestati in continuazione e comunque insomma si sentono comunque oppressi. Io voglio dire la mia. Io da 18 anni, 19 anni che sono divorziato e devo dire sinceramente non ho mai adoperato nessun tipo di violenza, però questo significa che in cambio io non ho ricevuto messaggi, aiuti da parte della mia ex, senti che hai bisogno di qualcosa, quindi di un effetto democratico. Di Ma aiuti di che tipo? Economico? Anche un aiuto telefonico, come stai? Ma se è chiuso è chiuso, quando la storia è chiusa non è un diritto, non può averci uno strascico. Siccome stiamo parlando di una famiglia che collabora per far sì che questa cosa non sia una violenza, io dico che... Sì, io... però Rinaldo, una cosa è ciò che è stabilito per legge da un punto di vista di obbligo patrimoniale, ma una cosa per l'amore di Dio, quando l'amore finisce ha diritto la sua ex moglie di fregarsene di lei può morire, sì, per la sua ex moglie. No, benissimo, ma siccome stiamo parlando dei figli, che comunque sui figli... Ah beh, i figli è un altro discorso, i doveri verso i figli è un rapporto esclusivo, quello è un altro rapporto, però il rapporto con i figli non passa per lei, non passa più per lei il rapporto con i figli. Io dico questo, che siccome io non ho mai adoperato violenze, pressioni, anzi, al contrario, mi sono preoccupato. Ma lei ha subito violenze? Noi uomini, al contrario, non riceviamo quello che la minima, diciamo così, interesse. Ti porto i ragazzi? Rinaldo, lei pretende ancora un'attenzione di tipo affettivo da una moglie che di lei non se ne vuole più occupare. Basta, un estraneo, non ci pensi più. Il suo atteggiamento nella gradazione patologica diventa lo stalker che non accetta. Dimentichi, sua moglie non c'è più, è morta, si preoccupi soltanto dei figli. Alberto. Buongiorno. Sì. Io ho avuto due convivenze, dalla prima ho avuto un figlio e dalla seconda due figli. Ho capito che la seconda si sarebbe sposata volentieri, avrebbe voluto sposarsi, ma proprio per i motivi che diceva l'avvocato, per non fare figli di serie A e di serie B, io le ho fatto capire, e lei forse per lavoro, per ragionamento, ha capito che non avrei torto così al primo figlio, per cui esiste anche poi la nostra volontà, se si vuole bene, se si ama, il codice prevede una cosa, ma uno può attuare in amore una vita diversa e di conseguenza non fa danno a nessuno. La seconda cosa, se ho capito bene, l'avvocato ha detto, forse ho capito male io, che per un figlio il tribunale ha assegnato o assegna, non so se a Roma, 800 al mese. No, a Milano ho capito male? Non ho mai parlato di soldi. Non abbiamo mai parlato di soldi. Ah, avevo capito 800, perché a Milano per due gemelle 500 euro il tribunale. Sì, ma non siamo entrati, non siamo proprio entrati in questo argomento. No, le chiedo scusa, ho capito male. Non c'entra nulla. E vorrei pregarla, se ha tempo in una prossima trasmissione, di trovare la canzone di Modugno, Il nostro anniversario, che è un inno all'amore delle coppie di fatto. Ma lei se la può anche sentire, se la scarica da YouTube, se la sente dalla mattina alla sera e rende felice. Speravo che lei la facesse sentire. A noi ci fa venire le grinze alle gonadi, però va bene, se le piace. Alessandra, buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, io intervenivo perché non sono molto d'accordo con quello che è stato detto fino ad adesso, nel senso che, a prescindere dal fatto che secondo me è meglio che i genitori stiano insieme per il bene dei figli e non ma di morte, se si odiano diventa una guerra, se si odiano diventa una guerra, i figli diventano l'esito di questa guerra, capisci? Lo so, però sì. Però insomma, comunque sarebbe bene che appunto non diventasse nemmeno una guerra. Allora sarebbe bene che magari le coppie prima di sposarsi pensassero seriamente questo quello che certo. Perché secondo me questa cosa manca moltissimo. Manca la serietà. Alla radice la serietà nei confronti del matrimonio. Questa è una cosa lecita e giusta. E poi oltretutto io non capisco per quale motivo certa gente, appunto senza questa serietà, decide di mettersi insieme, a vivere insieme in una casa senza il matrimonio, nel senso che se non crede nel matrimonio cattolico, benissimo, non c'è problema, perché c'è quello in comune, allora perché devi decidere di metterli insieme a qualcuno senza pensare a quello che fai, perché poi il problema perché? È quello. Perché in due si paga meglio l'affitto e poi se uno decide di vivere insieme a un'altra persona ha diritto di farlo. Che allora qua, perché allora si fanno dei figli? Questa non è una famiglia, se il problema è pagare meglio l'affitto in due in una casa. Ma no, si fanno i figli perché famiglia. C'è desiderio di farli, non, cioè è gradualità è vastissima. Ci sono tante sfaccettature in queste vicende. Allora, avvocato, andiamo a un punto. Sì. Gianettore Cassani, visto che siamo arrivati vicino alla conclusione della trasmissione, diamo i punti come secondo lei dovrebbe essere. Abbiamo visto gli aspetti negativi. Quale sarebbe la svolta, secondo lei, per punti? Ma io l'ho preciso nel mio saggio I perplessi sposi, che esce in libreria. Praticamente io dico, bisogna abrogare la separazione perché è una fase inutile del processo. Punitiva, assolutamente, di attesa e di ripensamento. Divorziati subito. Ovviamente con tutti i sostegni che ci vogliono. È importante appunto anche considerare i diritti delle coppie di fatto. Eliminare l'addebito e se ci sono questioni penali farle risolvere dal giudice penale. Introdurre i patti prematrimoniali. Io ho portato alla Commissione Senato Giustizia del Senato uno studio sui patti prematrimoniali che in Italia sono assolutamente vietati. E cosa sarebbero? Praticamente sono degli accordi prematrimoniali. Un contratto vero e proprio. Un vero e proprio contratto, come succede anche nella cattolicissima Spagna, dove ci si può mettere d'accordo sulle regole del matrimonio. Chiaramente tolta la questione gestione figli, perché non è certamente negoziabile, la questione economica, la casa, patrimoniale, le proprietà, tutto. Io e perché sono proibite da noi? Perché il nostro statalismo impone che sia il codice a decidere le regole del gioco e non le parti. E questo... Uno non può andare da un notaio e decidere, noi ci sposiamo, ma finirà così. Sono nulli, assolutamente nulli. Questo non lo sapevamo. Perché il matrimonio è visto ancora dal codice civile come un sacramento. Perché è trattato come un sacramento. Infatti chi mette in discussione il matrimonio, quindi vuole separarsi, deve espiare una colpa. Allora, la gente italiana, gli italiani devono imparare a essere un popolo libero. Ti vuoi sposare? Viva il matrimonio. Vuoi convivere? Devi avere i diritti minimi. Io ho difeso una donna che ha fatto praticamente da serva per 20 anni a un noto personaggio politico italiano, è stata cacciata di casa dalla sera alla mattina, sta sotto i ponti e anche lei fa la fila alla mensa della Caritas. Ditemi voi se questa è una società civile. Grazie avvocato Gianettore Cassani. Da oggi in libreria il libro I perplessi sposi, indagi sul mondo dei matrimoni che finiscono in tribunale. Abbiamo capito qualcosa in più e di questo gli siamo grati. A domani. Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.